581. Torta all'amarengo. Fate una pasta frolla, metà dose del numero 589. Ricetta A. Fate una crema nelle seguenti proporzioni. Latte decilitri 4, zucchero grammi 60, farina grammi 30, rossi d'uovo numero 3, odore di vaniglia. Prendete grammi 100 di pan di Spagna e tagliatelo a fette della grossezza di mezzo centimetro. Servitevi di una teglia di rame di mezzana grandezza. Ungitela col burro e copritene il fondo con una sfoglia della detta pasta. Poi sovrapponete giro giro a questa un orlo della stessa pasta, largo un dito ed alto due. Per attaccarlo bene, bagnate il giro con un dito intinto nell'acqua. Dopo aver fatto alla teglia questa armatura, coprite la pasta del fondo con la metà delle fette di pan di Spagna intinte leggermente in rosolio di cedro. Sopra le medesime distendete la crema e coprite questa con le rimanenti fette di pan di Spagna egualmente asperse di rosolio. Ora montate con la frusta due delle tre chiare rimaste dalla crema e quando saranno ben sode unitevi a poco per volta grammi 130 di zucchero a velo e mescolate adagio per aver così la marenga con la quale coprirete la superficie del dolce. Lasciando scoperto l'orlo della pasta frolla per dorarlo col rosso d'uovo. Cuocetela al forno o al forno da campagna e quando la marenga si sarà assodata, copritela con un foglio onde non prenda colore. La torta sformatela fredda e spolverizzatela leggermente di zucchero a velo. Coloro a cui non istucca il dolciume giudicheranno questo piatto squisito.